Radio 24 Reportage. Cake design e pasticceria. Dolci buoni anche per l'industria italiana. Di Adriano Palazzolo. Bake Off riapre le porte agli aspiranti pasticceri di tutta Italia. 3, 2, 1, che la grande festa abbia inizio! La sfida più dolce della TV, Master Pasticcere di Francia. Per alcuni è un artista. Sentito? Sta prendendo forma. Ma per tutti è e sarà sempre il boss delle torte. I nuovi episodi. Le magiche creazioni della Very Important Pasticceria ritornano con Il Re del Cioccolato. Cake design, pasticceria, arte dolciaria. Che siano torte, cupcake, muffin, brioche, creme, mousse, biscotti o gelato, in TV impazzano i programmi di cucina che parlano di dolci. Una moda ormai consolidata, con programmi di successo che si rinnovano di anno in anno, con ricette e preparazioni sempre più sofisticate e raffinate, difficili da riprodurre a casa per chi segue questo tipo di programmi, ormai più per lo spettacolo che per imparare a fare da soli. Un'arte che affonda le sue radici nelle abitudini dell'aristocrazia europea addirittura nel 1600, ma che nasce ufficialmente in Francia a metà dell'Ottocento. Appannaggio prima solo dei pasticceri professionisti, il cake design, grazie alla TV, è esploso come moda negli anni 2000. Questa è la pasticceria da Carlo. Ogni settimana sforniamo torte e capolavori di ogni tipo. Questo è il mio staff, la mia famiglia. Il nostro forno è il migliore. E io sono Buddy, il boss delle torte. È stato il celeberrimo pasticcere italo-americano Buddy, il boss delle torte, a fare da apripista in TV. Con il suo cake design ha mostrato come nella sua pasticceria viene declinata per le esigenze più svariate l'arte culinaria di decorare, utilizzando pasta di zucchero, glassa e altri elementi commestibili per torte o piccoli dolci. In alternativa, le stesse torte possono essere modellate e scolpite per assomigliare a persone, animali, luoghi e cose. Ma come si è evoluto in questi ultimi anni il cake design? Ce lo spiega Cristina Rado, presidente di giuria ai campionati mondiali di pasticceria, gelateria e cioccolateria che si sono svolti nell'ultima edizione di Host Milano, la fiera dell'ospitalità e della ristorazione. In Italia circa 10 anni fa è rientrata la moda del cake design nella sua forma odierna, moderna. Figure scolpite, pittura con coloranti alimentari, insomma una vera e propria tendenza affascinante. Per tanti una forma d'arte che nasce nelle mani di persone talentuose. Oggi lavorare sulle decorazioni è più facile grazie ai materiali nuovi, strumenti ed attrezzi ideate anche per coloro che non hanno tanto tempo o grandi manualità. Mentre 10 anni fa bisognava importare materie prime ed attrezzature dall'estero, in breve tempo i produttori italiani hanno capito l'esigenza e possiamo dire che oggi hanno raggiunto un livello di eccellenza di qualità. Le paste di zucchero sono decisamente migliori, ce ne sono diversi tipi, adatti per le varie tecniche. Attrezzi numerosi sono disponibili alla portata di tutti, mentre anni fa si usava magari un bastoncino, un pennello, un conetto di carta da forno e tanta pazienza. Parlando di artisti, anche qui c'è stata un'evoluzione importante. 10 anni fa si invitavano istruttori o si partiva per l'estero per imparare le varie tendenze. Oggi in Italia possiamo trovare dei corsi di cake design in tutte le regioni. Anche il pubblico è interessato e vario. I dolci in casa si sono sempre fatti. Oggigiorno le mamme decorano le torte dei propri figli e frequentano corsi brevi di pasticceria per imparare a fare i diversi impasti e basi. Nelle pasticcerie sempre più spesso nasce l'esigenza di assumere decoratori qualificati per soddisfare le richieste dei clienti. La Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria ha lo scopo di unire in modo capillare tutte le realtà esistenti sul territorio, scuole, grossisti, associazioni, imprese del settore, per rafforzarne la collaborazione ed ottenere la crescita di tutto il settore e dei prodotti made in Italy. La formazione professionale, l'organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni, la promozione e lo sviluppo del comparto artigianale tipico di ogni regione d'Italia sono tra gli obiettivi principali della Federazione. È il suo presidente, Roberto Lestani, a fotografare la situazione imprenditoriale in Italia di questo settore, non facile da inquadrare. Il mercato italiano nella pasticceria è in continuo fermento e in continua evoluzione. Oggi si può parlare di una stima approssimativa di un 45-50 mila esercizi. Dico questo perché l'approssimazione da cosa dipende? Appunto proprio dall'intersecarsi fra il settore pasticceria, panificazione, gelateria, quindi diciamo che non esiste un concetto vero del negozio che fa solo pasticceria ed è per questo che le stime sono abbastanza approssimative. Chiaramente in questi anni c'è stata un'evoluzione del mercato che è andata a braccetto con l'evoluzione della materia prima e quindi anche le aziende si sono dovute adeguare a questo mercato in continuo cambiamento. Oggi abbiamo anche la fortuna di avere appunto delle aziende che fanno una tecnologia all'avanguardia, che danno la possibilità appunto al piccolo artigiano di produrre in modo ponderato, perché il problema oggi è appunto la produzione, i costi fondamentalmente, che possono essere espressi come il costo del lavoro. Quindi all'interno delle aziende artigianali di pasticceria l'importanza è l'organizzazione del lavoro per andare ad abbattere al meglio quelli che sono i costi. La federazione al suo interno vanta anche un albo d'oro denominato Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, composto da numerosi membri che hanno collezionato oltre 580 medaglie d'oro in concorsi internazionali e mondiali. Uno dei membri è Gennaro Filippelli ed è lui che ci dice cosa cercano oggi i clienti quando entrano in pasticceria. Chi lo avrebbe mai detto che dolci e torte possono risultare un metro di valutazione dei cambiamenti sociali del nostro paese? Oggi è sempre più richiesto un dolce più lavorato, più bello esteticamente, ma deve essere nello stesso tempo buono. In passato si cercava la torta principalmente buona, bella, decorata, semplicemente decorata. Oggi invece dobbiamo trovare il giusto connubio tra bellezza e gusto. Una cosa importante è che oggi in Italia si chiede sempre più un po' di pasticceria internazionale, cioè stiamo un po' allargando la visuale, stiamo introducendo la pasticceria di altri paesi all'interno del nostro, quindi le preparazioni di mousse bavaresi, basi che comunque rientrano nella pasticceria tradizionale, vengono miscelate a quella che è la pasticceria innovativa. Essendo tradizionalisti amiamo i gusti classici come la nocciola, il cioccolato, anche perché la produzione in Italia della materia prima è di qualità, però la richiesta dei clienti, più pronti e aperti ad assaggiare nuovi prodotti, magari vengono utilizzati dei gusti come la lavanda. Anche i fiori possono essere degli ingredienti per le torte, vengono utilizzati fiori, frutti esotici tantissimo, come ad esempio il mango, anche perché oggi in Italia non ci siamo più solo italiani, ma una parte della popolazione è anche formata da persone che arrivano da altri continenti, altri stati, quindi introducono anche loro i loro prodotti. Noi italiani siamo sempre più pronti ad assaggiarli. In questo viaggio a 360 gradi nel mondo dei dolci non si può non parlare di gelato. Basti pensare che il mercato mondiale del gelato artigianale vale attualmente 15 miliardi di euro, con una crescita media del 4% all'anno dal 2015 a oggi. L'Italia, dove il consumo del gelato è per un terzo industriale e due terzi artigianale, è il primo paese al mondo in cui si assiste a tale predominio nelle preferenze dei consumatori. In Europa nel 2016 si contavano oltre 60.000 gelaterie, delle quali 39.000 in Italia. Ma qual è lo stato di salute del gelato artigianale in Italia? Risponde Franco Puglisi, membro del comitato d'onore della Coppa del Mondo di Gelateria e promotore del gelato artigianale nel mondo. I dati relativi al 2017 sono positivi, il trend è positivo. È chiaro che il gelato artigianale è ancora un prodotto che in larga parte è legato alle condizioni meteorologiche. Avendo avuto un'estate molto lunga e molto calda, questo ha sicuramente aiutato. Anche se paradossalmente il clima migliore in assoluto per favorire il consumo di gelato non è il gran caldo, dove il consumatore finale tende a chiedere bevande fresche. Il clima medio primaverile è il massimo possibile, tant'è vero che i venditori di gelati, i gelatieri, di solito pesano in termini di qualità della stagione molto più la primavera rispetto per esempio a se fa caldo nei mesi di settembre-ottobre, perché tra marzo, aprile, maggio e giugno sono i mesi in cui, se ci sono belle giornate, bel tempo e non un caldo torrido, gelato spopola. Tornando al 17, anno sicuramente positivo, un trend in crescita. Quello che sta diventando un trend estremamente interessante è che sempre più il gelato artigianale viene destagionalizzato, per cui non è più un prodotto però che si vende solo d'estate. Tant'è vero che le gelaterie aperte solo d'estate sono sempre di meno. Sempre di più il locale gelateria offre ai propri consumatori un consumo di gelato artigianale anche portato molto più vicino alla pasticceria, al semifreddo, in modo da poter avere delle proposte accattivanti durante tutto l'anno. Questo è un po' il segreto. Non si compra più solo il gelato artigianale in piena estate o in primavera, ma si consuma anche in autunno e in inverno, specialmente se viene proposto con delle caratteristiche più consone alla stagione più fredda. Gelatieri, pasticceri, cioccolatieri, artisti del cake design. Mestieri affascinanti ma che richiedono impegno, dedizione, studio e fatica. Spesso le preparazioni richiedono diverse ore di lavoro, se non giorni, nei casi di composizioni più complesse. Per questo motivo diventa fondamentale avvalersi di macchine e di tecnologie alimentare sempre più avanzate, che possono preservare, oltre alla qualità del prodotto, anche la qualità della vita di chi lavora, come spiega ancora Roberto Lestani, presidente della Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Se io sono un pasticcere, io sono un gelatiere, cosa voglio avere dal mercato? Voglio avere la possibilità di dare un prodotto nel minor tempo possibile con la migliore organizzazione. Faccio degli esempi un po' concreti: la tecnologia del freddo, l'uso degli abbattitori, dei conservatori in questi anni ha dato la possibilità proprio al pasticcere da organizzarsi meglio, ma organizzare vuol dire fare qualità. Qualità intesa come qualità della materia prima, ma anche qualità di vita, perché se io pasticcere devo entrare alle 4 di mattina in un laboratorio e uscire a mezzanotte, c'è qualcosa che non va. Quindi ecco, bisogna essere attenti anche a questa evoluzione del mercato. Questo è un piccolo esempio, ma può essere anche il sottovuoto, anche dai classici macchinari, come può essere una planetaria da banco, una sfogliatrice. Anche in queste piccole attrezzature c'è un'evoluzione. Le sfogliatrici fino a qualche anno fa erano sfogliatrici manuali. Oggi c'è la possibilità di avere la sfogliatrice automatica. Quindi io metto il pezzo di pasta sfoglia, schiaccio un pulsante e quindi la macchina fa tutto fino a farmela trovare arrotolata. Questo è un piccolo esempio per far appunto capire di cosa stiamo parlando. E di queste evoluzioni le troviamo in tutto il settore, in tutti i macchinari. Quindi anche le aziende chiaramente vedono che c'è questa evoluzione di mercato, che c'è questa esigenza di mercato. Tecnologie e attrezzature per i prodotti alimentari sono dunque importanti sia per la qualità del prodotto sia per la qualità della vita di chi le utilizza. Ma quanto conta questo comparto per l'industria italiana? A fare una fotografia del settore nel corso dell'ultima edizione di Host Milano, la fiera dell'ospitalità e della ristorazione, è stato Marco Nocivelli, presidente di Asso Food Tech, l'associazione italiana costruttori macchine, impianti e attrezzature per la produzione, la lavorazione e la conservazione alimentare. Abbiamo visto una ripresa importante, una ripresa soprattutto dell'Europa che sta tornando un vero cavallo di battaglia per tutti noi. Per quel che riguarda i numeri, possiamo dire che il 2016 è migliorato del 3,8% rispetto all'anno precedente e che ci aspettiamo almeno lo stesso miglioramento nel 2017. Nel comparto delle macchine per pane, forni e pasticceria, anche lì il miglioramento è deciso, siamo sempre nell'ordine del 4-5% e in particolare quello che notiamo anche i mercati che una volta erano meno presenti, quelli dell'Africa, stanno tornando in maniera significativa. È cominciato un trend molto positivo anche grazie all'iperammortamento e al superammortamento. L'investimento ormai si attesta al 15% quando negli anni precedenti facevamo l'1%. Credo che sia un messaggio molto positivo e devo dire che speriamo vivamente che questo supporto all'impresa venga continuato anche nei prossimi anni. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.